X24, la storia. Buonasera, ma che sera, ci rivediamo un'altra sera, questa sera. Buonasera, Alighiero vi saluta. E se non avrete riconosciuto è la mia voce. Fra tante belle voci che io imito, la mia personale è questa schifezza di voce che state ascoltando. Quando noi ragazzi degli anni 50-60 pensavamo a un'imitazione, pensavamo soltanto ad Alighiero Noschese. Alighiero Noschese è stato il primo personaggio dello spettacolo, io credo, che ha fatto satira politica. Noi che facevamo vita politica, vorrei dire che era un po' il segno della promozione in Serie A essere imitato nelle sue trasmissioni. Il 3 dicembre del 1979, a soli 47 anni, si uccideva Alighiero Noschese, un attore imitatore famosissimo, uno dei volti più noti della televisione italiana, quello che Federico Fellini aveva definito un ladro di anime, per la sua incredibile capacità di imitare alla perfezione i politici e i personaggi dello spettacolo. Ecco, oggi su Radio 24 noi raccontiamo la sua storia, la storia di questo camaleonte che per primo portò le imitazioni e la satira politica in televisione, nei grandi varietà della RAI, ma anche la storia di un uomo pieno di misteri, di luci, di ombre, di inquietudine. Ma intanto, chi era Alighiero Noschese? Questa la sua voce. Per voi le voci passano, a me entrano e restano. Perché se per voi le voci sono voci, per me sono voci. E le ho tutte qui e sono tante. Da quanto tempo? Da quando sono nato. Buon divertimento. Sei Ugo. Sei Ugo. Amici derelitti, amici emarginati, rapinatori che siete oppressi dalla violenza di Stato, davanti a voi è l'apostolo della politica, il vero martire della sinistra. Il mio simbolo è falce e martirio. Ripeta la domanda. Nato a Napoli nel 1932, Noschese era destinato a fare l'avvocato, poi invece la scelta di fare l'attore. Noschese inizia con la radio, poi nel 1963 in teatro ha un successo trionfale con Scanzonatissimo, forse il primo spettacolo di satira politica. E con Scanzonatissimo succede l'impensabile, e cioè che i politici dell'epoca capiscono la forza e la popolarità di Noschese e quindi fanno a gara per farsi imitare. Così il ricordo di Elio Pandolfi. E lui aveva delle perplessità di fare più o meno l'attore o non l'attore, perché lui studiava giurisprudenza all'Università di Napoli, aveva come professore addirittura il professor Leone, che è stato poi presidente della Repubblica. Ma sebbernamente fu proprio lo stesso Leone a dirgli: ma no, vai avanti per questa strada, perché poi come un Alighiero faceva Leone era una cosa straordinaria. Stia attento, signor Fanfani. Quale busta vuole? Tutte. Grazie, sono troppe. Allora la uno. Passano 5 anni, come inevitabile Noschese approda in televisione con Speciale Noschese, Ciao 68 e naturalmente Doppia Coppia, il suo programma di grande successo che lo consacra definitivamente. A questo punto Noschese allarga il suo repertorio e spinge le sue imitazioni oltre i politici. Prende di mira anche i personaggi della televisione, così il ricordo di Max Tortora. Io ho dei ricordi indelebili di Alighiero Noschese che sicuramente sono passati alla storia della televisione. Uno è un Mike Buongiorno con Sabina Ciuffini, perché lui utilizzava poi i partner veri nella vita e le stesse scenografie, quella fu la prima intuizione geniale anche. Signori e signori, buonasera e benvenuti a Rischia Tutto! Prima di proseguire vorrei però presentarvi la nostra valetta Sabina Ciuffolini! Tante volte permette di entrare dall'altra parte che mi riesce meglio il viso, eh. Comunque, noi gli dobbiamo dire che questa settimana la nostra Sabina ha indossato una gonna a lunghezza variabile secondo i desideri dei telespettatori. Fai vedere adesso, eh? Fai vedere, eh? Hai visto come è brava, eh? La minigonna che salza e si abbassa, eh? E poi c'era un altro bellissimo, c'era un TG Noschese dove tutti i personaggi del telegiornale venivano imitati a rotazione da Alighieri. Buonasera, qui è Mario Pastore che vi riferisce le notizie dall'interno. Per gli avvenimenti sportivi, Moritz Barenson. Qui Sergio Telmo, re Sandy Giordani si è incontrata a Copenaghen con Haile Selassie per discutere l'ingresso della Cambogia nel mercato comune europeo. Mi dicono che non è vero. Ma sentiamo ora che cosa ha da dirci il nostro Tito Stagno. A Mix 24 vi raccontiamo la storia di un protagonista assoluto dello spettacolo italiano, Alighiero Noschese. Mix 24, la storia. Sempre pieno di sorprese, Alighiero, che è Noschese, si trasforma là per là e Piero Angela ti fa. Qui Piero Angela, ci occuperemo questa sera della consueta epidemia influenzale in arrivo nel nostro paese. Ci colleghiamo con uno dei tanti infermi colpiti da virus influenzale, il cantante Lucio Dalla. Dice che era un bacillo e veniva dal mare. Parlava un'altra lingua, sapeva contagiare. Oggi su Radio 24 stiamo raccontando la storia del padre della satira italiana, Alighiero Noschese, attore, imitatore. La sua è una carriera in ascesa. Dopo i politici, imita i personaggi del mondo della televisione e dello spettacolo. Così il ricordo di Tito Stagno e Renzo Arbore. Stavo preparando di pomeriggio i testi del telegiornale alla macchina da scrivere, quando intuì davanti a me una presenza, sollevai gli occhi e c'era Alighiero che mi fissava sorridendo con gli occhi furbissimi e capii in quel momento che dopo i colleghi, dopo Pastore, dopo Orlando, dopo Telmont, toccava a me andare sotto le sue grinfie. Quell'imitazione mi piacque anche perché c'erano degli accenni alla mia persona che mi fanno ancora sorridere, per esempio la mia cecità o quasi cecità nonostante i grandi occhialoni, l'arrivo delle pietre lunari. Una pietra in fronte, dovrò farla analizzare per stabilire se si tratta di una pietra lunare o di una selciata terrestre di qualche ragazzino maleducato. Poi c'era un irresistibile Ruggero Orlando. Ruggero Orlando è stato il maestro di tutti gli inviati speciali. Qui è Ruggero Orlando che vi parla da New York via satellite numero 35 scala B interno 21. Mi diresti di fare una controcanzonissima? E che significa controcanzonissima? Una canzonissima con il cantassenti. Va bene. Signore e signori, buonasera. Trasmettiamo contro canzonissima 71. Che ne so di be quadre di bemolle, che ne so chi era verdi e un cavallo, e del mi e del fa e del do, che ne so. Ha inventato questa cosa qui, che poi è stata ripresa dagli imitatori, cioè quella di sostituire le parole con altre che esagerate, che però usavano la stessa tematica simpatica o antipatica degli stessi cantanti. La vedi è una banana, la buccia si dà. L'imitazione naturalmente non mi piacque. Non mi piacque perché io poi ero una ragazzina molto elegante, molto snob, e i soldi, il denaro, che volgarità. Ripensandoci oggi, beh, peccato non aver seguito il consiglio. Buonasera, questa è la vostra Enza Sampo, che vi parla cordialmente. Mio marito una volta che mi vide imitata da Noschese, che intervistava Ungaretti, mi disse: ma sai che ti somiglia? La voce non tanto, ma ti somiglia fisicamente. Io mi sono naturalmente offesa moltissimo. Giuseppe Ungaretti, professore, lei bilandoli dell'ari di Lindo Toi, di Dentali, di Giolbi Flid, lei l'ari di Stolidina. Mi ricordo irresistibile le signorine Buonasera, perché lui si calava nei panni delle signorine Buonasera, che allora quasi tutte cercavano di conquistare il pubblico con una femminilità o una graziosità esagerata. Signori e giovanotti, buonasera. Come vedete, il triangolo sta segnalando l'inizio del programma sul secondo canale. Uomini, donne, politici, presentatori, cantanti. Il Noschese del Varietà del sabato sera diventa dunque un personaggio popolarissimo e soprattutto amatissimo dagli italiani. Naturalmente stiamo parlando di un'epoca in cui la televisione era ancora in bianco e nero. Nelle case non c'era il videoregistratore, non c'era neanche una scuola per imitatori. E allora come faceva Noschese a entrare in questo modo così complesso, così articolato nei suoi personaggi, a rubare così completamente l'anima delle sue vittime? Così il ricordo di Gigi Sabbani. È stato un momento, credetemi, forse per la prima volta, ma non mi è mai più capitato, che non riuscì a capire chi fosse Sordi vocalmente, anche a livello trucco, e chi fosse Alighiero Noschese. L'ospite di questa sera è Alberto Sordi. C'è solo un modo per sapere chi di voi due è Alberto Sordi: la prova telefono. Ecco, date un po' un telefono. A me telefono. Sì, sì, ecco. Avanti. Adesso chiamate Mario Pio. Pronto, Mario Pio, pronto? In chi parlo? In chi parlo io? Non faccio bene. Pronto, Mario Pio, pronto? In chi parlo? In chi parlo io? Pronto? Pronto, sono Alberto Pio? Sordi. Chi sei? Sordi. Sordi? Quanti sì. Siete? Tu, tua madre e tuo nonno? Lì avevo capito che Noschese veramente entrava nel personaggio a 360 gradi, che anche un, secondo me era anche un po', ed è anche un po', dico pericoloso, però un po' inquietante. Tu sei Noschese. E da che lo sai? Sì, e tu sei Sordi, hai capito? E capirai, a broccolo, ci è voluto... Ma Noschese non si accontentava solo di imitare i personaggi dello spettacolo, ma alza in un certo senso l'obiettivo. L'Italia degli anni 70 è ancora forse impreparata al ciclone Noschese, ma intanto nel suo mirino finiscono anche i politici dell'epoca, così il ricordo di Magalli e Andreotti. A casa di Alighiero, e parliamo degli anni 60, io vidi il primo videoregistratore della mia vita, era un apparecchio che lui aveva fatto venire non so da dove, con il quale registrava spettacoli, telegiornali, passava ore e ore a riguardare le immagini per cogliere i tic, i movimenti. Noi radicali ci continueremo a battere per la valorizzazione della donna, ed ieri la nostra proposta alla giunta comunale di Napoli perché in quella città il maschio angioino venga da oggi denominato donna angioino. Utilizzava un registratore che aveva due piste separate sul nastro, in una registrava la voce del soggetto e in un'altra registrava la sua, la prova dell'imitazione, poi ascoltava le due piste separatamente insieme. Un altro pensiero alle casalinghe, e un altro pensiero ai pensionati, e un altro pensiero agli sportivi. Voi vedete quanti pensieri ha un presidente. Il governo non tollererà ulteriori scadimenti dell'ordine pubblico. Ho proposto personalmente che le Brigate Rosse vengano poste fuori legge, perché in quanto rosse contengono il colorante E123. Onorevole Pannella, a lei la parola. Non parlerò molto poiché sono provato dalla mia lunga tournée di digiuni all'estero. Lei è noto come uno che parla chiaro, che dice pane al pane e vino al vino. Non mi parli di pane e di vino. Intendevo riferirmi alla sua personalità. Lei non è uno di quelli che rivoltano le frittate. No, le frittate mai! Onorevole Enrico Berlinguer. si potrebbe spostare a sinistra, sto centro-sinistra, vengo anch'io. No. Si potrebbe far fare anche noi qualche giro di giostra e levare la sedia di sotto a tre democristiani per vedere a Colombo e a Taviani l'effetto che fa. Vengo anch'io. No. Vengo anch'io. No. Vengo anch'io. No. Ma perché? Perché no. Esclusiva assoluta, un'intervista con l'onorevole Giulio Andreotti. Io ho un difetto quando sono ragazzino, e sto abbastanza curvo, vedevo quasi equiparato al gobbo di Quartizzolo. Forse un lieve fastidio me lo dava, però poi riflettevo che questa era colpa mia, perché se io fossi stato più dritto, non nel senso figurato, ma nel senso fisico di questa espressione, e allora mi avrebbe imitato in altra maniera. Vorremmo sapere qual è stata la posizione del partito nei confronti del suo governo. Posizione di estrema lealtà e correttezza. Devo dire che in ogni votazione da me richiesta alla Camera, molti dei miei colleghi di maggioranza si sono dimostrati franchi. Bene. Tiratori. Come? Franchi e tiratori, tiravano l'acqua. Mia madre un giorno mi ha detto, adesso ti sei messo anche a ballare in televisione. Ho detto, come ballare in televisione? Ha detto, mi dici bugie. No, ieri sera ti ho visto benissimo, hai ballato in televisione, mi pare che non dovresti fare il buffone in questa maniera. Io per la verità non capii assolutamente di che cosa si tratta. È stato una delle trasmissioni di Noschese, l'ultimo rimprovero che ho preso da mia madre vivente. Mix 24, la storia. Bentornati a Mix 24, quella che stiamo raccontando oggi è la storia dell'imitatore italiano che ha creato la satira politica, Alighiero Noschese. Dunque Fanfani, Cossiga, Andreotti, Pannella, Labonino, addirittura il presidente della Repubblica Giovanni Leone. Ma quanto era difficile nella Rai di allora fare una satira politica come questa? Cioè esisteva una censura? Quali problemi ebbe Noschese, se li ebbe, con le sue imitazioni? Così il ricordo di Loretta Goggi, Massimiliano Canè e poi dell'allora direttore generale della RAI, Ettore Bernabei. La censura a quei tempi c'era, ma era preventiva ed era quella del buon gusto. Il primo che diede l'autorizzazione, quindi il consenso a mandare in onda l'imitazione, fu proprio il suo ex professore di università, il presidente Giovanni Leone. Grazie a tutti, grazie in particolare la sua eccellenza Leone che mi ha autorizzato a fare la sua imitazione. Onorevoli, attendo altre adesioni. Tutto quanto fa spettacolo in TV, anche il presidente degli Stati Uniti. Che io ricordi non ha mai dato luogo a interventi censori, non ci sono mai state proteste del pubblico. Signor Cruchot, ora lei come passa le sue giornate? Ve le dirò, insomma, tutto sommato non mi posso lamentare. Allora se la passa bene. Le ho detto, non mi posso lamentare. Insomma, un camaleonte che non guarda in faccia niente e nessuno, che con la sua voce può imitare praticamente chiunque, ma fin qui è naturalmente il Noschese pubblico, l'uomo dai mille volti e dalle mille voci. Ma chi era Noschese nel suo privato? Chi era l'uomo? Che uomo era, insomma, quando usciva dai suoi personaggi e interpretava soltanto se stesso? Così il ricordo degli amici Lando Buzzanca e Delio Pandolfi. Aveva carisma, cioè aveva la possibilità di entrare dentro i sentimenti degli altri. Era accattivante, ti strappava l'amicizia, ti catturava l'interesse. Se ti amava, se aveva simpatia per te, lo faceva completamente. Tutto, si dava tutto. Questa sua generosità anche corporale mi affascinava. L'avevo capito, insomma, anche se in un primo momento ho dubitato ma fosse gay. Invece no, non era assolutamente gay, era proprio così. Colpo di fulmine, Cupido col dardo, lo dirò, quando facevamo Scanzonatissimo al Teatro Parioli a Sestina, lui si innamorò di una ragazza, appunto, che lavorava in teatro, una bella ragazza bionda con degli occhi celesti, una faccia molto molto serena, un bel tipo, e si è presa questa cotta e logicamente può essere sposata, l'ha trasformata in una in una signora noschese veramente bella, paciosa. L'amava veramente, poi avuto due bambini deliziosi, Antonello e Chiara. Era innamorato della moglie, fedele. Era un difetto questo. Antropologicamente anche, soprattutto antropologicamente è un difetto. Viaggiava con dei bauli enormi, no? Tutti c'avevano gli abiti e poi da una parte c'è stava proprio tutto il pronto soccorso di tutti i tipi, pillole, pillolette, medicine, vitamine, bla bla bla. Era fissato con le medicine, ogni cosa che dicevi, mi fa male la testa, cioè, ti diceva il nome del farmaco, mi fa male un piede, subito era fissato perché aveva paura di tutto. E poi un'altra cosa che imparammo da lui è quello di andare in giro sempre con santi, santini, sale, il chiodo arrugginito in tasca perché dice che portava bene. Io non ci ho mai creduto tanto a queste cose, però dicevo, oh, se lo dice Alighiera, Alighiera è grande, qualcosa di vero ci sarà. Che? No. Sì. Io lo vedo che si cambia e c'era una gibot e poi ci vedo attaccati tutti i corni. Un corno rossi come quelli napoletani qui, è una specie, è una reliquia qui, un santino, dicono, Alighiero mio, qui te devi decidere perché o la va la spacca o ci tieni i corni o i santini, come si fa? I santini dietro sullo specchio e i corni metti di qui, e io comincio a dire come un matto. Se finiscono e il matrimonio è finito, io credo che la parabola di discesa sia proprio cominciata là. Il vero difetto di Alighiero Noschese, proprio organico, proprio era una sua incapacità esistenziale, cioè di vivere la vita esterna al personaggio che interpretava, la sua stessa vita. Ecco perché fu addirittura accusato di essersi iscritto alla P2, sarà non vero, non era vero, però è certo che se qualcuno gli avesse proposto, guarda, ti vuoi iscrivere all'Azione Cattolica, avrebbe detto di sì, guarda, ti puoi iscrivere alla Massoneria, avrebbe detto di sì. Diceva sì a tutto quello che lo teneva tranquillo. Dietro la maschera, come avete sentito da Giovanni Salvi, si intravede un uomo fragile, insicuro, ipocondriaco. Nel 74 anche il suo matrimonio va a rotoli. Ma per l'attore è l'inizio di una crisi più profonda che non riguarda soltanto il suo matrimonio. Nel 74 infatti anche il suo rapporto con la Rai si interrompe in maniera brusca e misteriosa. E sempre nel 74 Alighiero Noschese lascia la massoneria di Piazza del Gesù. Ecco, quello del rapporto di Noschese con la massoneria è uno dei capitoli più oscuri e delicati della sua vita. Per capirlo bisogna fare un passo indietro tra le due famiglie della massoneria italiana, quella di Palazzo Giustiniani del Grande Oriente d'Italia e quella di Piazza del Gesù. Noschese aveva scelto nel 67 quella di Piazza del Gesù. E anche questa sua affiliazione resta uno dei tanti misteri di questo artista. Così il ricordo dello storico della massoneria Aldo Mola e di Giovanni Salvi. Alighiero Noschese si avvicina alla massoneria in età relativamente matura, quando ha 35 anni. Io, sottoscritto Alighiero Noschese, chiedo di essere iniziato nella massoneria universale di rito scozzese antico ed accettato, che riconosco essere l'unica regolare nel mondo. Lo fa perché evidentemente sente il bisogno di completare la sua formazione umana. Nome e cognome. Alighiero Noschese. Data e luogo di nascita. Napoli, 25 novembre 1932. Stato di famiglia. Coniugato. Condizione sociale. Agiata. Professione. Attore. Paternità. Alberto. Figlio di massone? Sì. 19 aprile 1967. Alighiero Noschese presta il suo primo giuramento alla massoneria. Io, Noschese Alighiero, prometto e giuro di non palesare giammai i segreti della libera massoneria, di non far conoscere ad alcuno ciò che mi verrà svelato. Alighiero Noschese, nella sua richiesta di iniziazione alla massoneria, indica tre caratteristiche particolari che sono: appartenere ad una famiglia massonica, di essere cattolico e di essere socialdemocratico. Così le parole di Aldo Mola. In 6 anni Alighiero Noschese ha percorso una carriera massonica che solitamente richiede 15 o 20 anni. L'illustrissimo fratello Alighiero Noschese viene di nostro motu proprio elevato al grado di cavaliere cadorio. Dopo quasi 10 anni di appartenenza all'obbedienza di Piazza del Gesù, Alighiero Noschese nel settembre del 1974 si congeda. Caro generale, riferendomi alle nostre precedenti conversazioni e dopo serie meditazioni, con effetto dalla data della presente comunicazione, per motivi strettamente personali, ti prego di prendere atto delle mie irrevocabili dimissioni. Cordiali saluti, Alighiero Noschese. 2 giorni dopo, Alighiero Noschese viene accolto nel Grande Oriente d'Italia e gli viene riconosciuto il grado fondamentale, che è quello di maestro massone. Nei primi anni 70, all'interno della massoneria di Palazzo Giustiniani, si è consolidata la figura di Licio Gelli, che ha ispirato e guidato l'organizzazione denominata Loggia P2. Ancora la testimonianza di Aldo Mola. Gelli chiama Alighiero Noschese a far parte del gruppo centrale della loggia Propaganda Massonica numero 2, detta anche P2. All'interno della loggia P2, ad Alighiero Noschese corrisponde il codice E1977, fascicolo 343, tessera numero 1777. Così la ricostruzione dell'allora vice direttore generale della televisione di Stato, Giovanni Salvi. Lui l'ha fatto per far piacere a un amico, che non cito e non voglio nominare, che ho conosciuto anch'io e che era uno molto introdotto nella P2. Lo stesso che l'ha fatto iscrivere a P2 disse: Alighiero, mi fregava niente, ma per paura che gli succedesse qualcosa di inevitabile l'ha presa come andare a pregare appunto San Giuseppe. E perché Alighiero Noschese si è iscritto alla massoneria nel 67? Perché poi 7 anni dopo, nel 74, è passato improvvisamente alla loggia P2? A queste domande nessuno può dare una risposta. Neanche la commissione d'inchiesta sulla P2, dai cui atti abbiamo tratto i documenti di cui vi abbiamo parlato. Forse, come dice Giovanni Salvi, e lo avete sentito, Giovanni Salvi, che era il dirigente che all'epoca si occupava di tutto il varietà della RAI, la risposta è nella sua insicurezza, nella sua condizione di uomo fragile. Mix 24, la storia. A Mix 24 vi raccontiamo la storia di un protagonista assoluto dello spettacolo italiano, Alighiero Noschese. Per quest'uomo così fragile, gli anni 70 sono stati anni molto difficili, abbiamo detto. Il matrimonio è finito e per 4 anni Alighiero Noschese stenta a ritrovare il suo lavoro alla RAI. Poi però nel 1978 la RAI gli offre di nuovo una grande occasione. Un sabato sera, accanto a Raffaella Carrà, Paolo Panelli Bice Valore. Il titolo del programma: Ma che sera. Così il ricordo di Carlo Fuscagni. Lo spettacolo del sabato sera. Il mitico Studio 1 di Via Teulada a Roma. Stasera, che sera. Che sera si trovò ad andare in onda nei giorni tragici, drammatici del rapimento Moro, e quindi le atmosfere anche erano cambiate, le attese del pubblico erano diverse, e certamente questo influisce anche sul risultato delle trasmissioni, specialmente quelle di varietà. Che sera, insomma, era il programma sbagliato nel momento sbagliato. Per Noschese, quella che doveva essere la grande occasione di rilancio per ritornare alla ribalta, si trasforma in un fallimento. Per lui ricomincia un periodo buio e difficile. Così la testimonianza di Giovanni Salvi e Lando Buzzanca. Dal 78, quando andò in onda questo Ma che sera, in pratica lui non ha fatto più niente. Ha rinunciato a tutte le proposte No, la gente non mi ama. La gente non mi ama più. Il telefono non gli squillava più. Sai che vuol dire il telefono che non squilla più? Se si era ritirato e nessuno lo voleva più. La sua ossessione ipocondriaca lo portava a doversi curare. Ma di che? Dicevo io, c'ho qui il mal di stomaco. In quel caso doveva curare una forte depressione. Il 12 novembre del 79, stanco, depresso, abbandonato dal grande pubblico, Alighiero Noschese si ricovera a Villa Stuart, una clinica romana. Qui trascorre 22 giorni e qui, in clinica, il 25 novembre, festeggia il suo 47esimo compleanno. E siamo al 3 dicembre del 79. A Roma è una tiepida giornata d'inverno. Come ogni mattina, Noschese si sveglia alle 8 per fare la sua passeggiata. Queste le sue parole. L'abitudine di incasellare nella memoria soltanto delle voci e spesso mi crea della confusione, specialmente quando passa troppo tempo. Sai che ti dico, io non mi conosco. Una personalità, mi dirono scrive, credo forse che non l'abbia. La morte di Alighiero Noschese, come vi abbiamo anticipato, Noschese si è suicidato. Si è tolto la vita nel giardino della casa di cura clinica Villa Stuart a Roma. Vi era ricoverato da qualche tempo per disturbi nervosi. A Roma si è ucciso Alighiero Noschese, si è sparato nel giardino della clinica dove era ricoverato dal 12 di novembre. Era sempre in maniera tragica la morte di Noschese. Ero in clinica per un'operazione, mi levavano la cistifellea. A un certo momento si sentì veramente un colpo di pistola e pochi attimi dopo il maresciallo della mia sicurezza entrò e mi disse: si è ucciso Noschese. Io non sapevo nemmeno che fosse in clinica, io ero arrivato da 2 giorni e quindi mia figlia con la sua bambina stava nel giardino proprio a pochi passi dal posto dove Noschese aveva scelto di togliersi la vita. Il suicidio di Alighiero Noschese segna la fine di un grande artista, di un personaggio che il pubblico televisivo non ha mai dimenticato. Ma la sua morte, così privata, così banale nella sua tragicità, suscita anche interrogativi e misteri. Sul Corriere della Sera Enzo Biagi scrive: di fronte al mistero di un uomo che si toglie la vita, bisognerebbe tacere. Ma questo mestiere ha le sue pretese e non consente il silenzio. Così la testimonianza del sostituto procuratore di Roma nel 1979, Alfredo Rossini. Io direi la verità, io rimasi colpito dal fatto che una persona ricoverata, come risultava dai primi accertamenti, per una depressione, potesse essere mantenuto in clinica in possesso di una pistola. Perché si sa che in genere la depressione può portare a degli impulsi suicidi e quindi la pistola è troppo facile strumento. E per questo avviai l'indagine, l'inchiesta. Un'inchiesta abbastanza lunga, per cui mi ricordo che furono ascoltati i responsabili della clinica, altre persone informate dei fatti, anche credo dei medici. Non mi ricordo se fu fatta una perizia e nessuno era in grado di sapere che lui avesse la pistola addosso e non era in condizioni apparentemente mentali tali da far pensare a un atteggiamento suicidario conclamato. È stata avanzata da parecchie persone l'ipotesi che facesse abuso di farmaci, psicofarmaci ed altro, però di questo non è emerso alcunché. E a questo punto, sotto il profilo penale, che è l'unico che interessava a me, probabilmente non c'erano dei rilievi da fare. Credo che sia stato allora il giudice istruttore a chiudere definitivamente il processo per l'inesistenza del reato. Non c'è reato dunque, non c'è processo. Il caso della morte di Alighiero Noschese è chiuso, a dispetto degli interrogativi, delle polemiche e dei dubbi. Di lui oggi ci restano quegli straordinari momenti di spettacolo. Buonasera, ma che sera, ci rivediamo un'altra sera, questa sera. Buonasera, Alighiero vi saluta e se ne va. Signore e signori, buonasera. Buonasera. Paolo Guzzanti, ex senatore, scrittore, giornalista, ma soprattutto, come forse pochi sanno, grandissimo imitatore, è rimasto famoso per una sua imitazione di Pertini a Quelli della Notte. Ecco, Paolo, tu forse sei ancora più bravo dei tuoi figli, almeno all'origine. Che cosa ti ricorda Noschese? Ma guarda, di Noschese io ho un ricordo triste, perché io lo ricordo in questa televisione in bianco e nero, certo, con questo suo viso molto timido, perché era un uomo che aveva un'anima molto visibile, non era un gradasso del mestiere. Aveva questa specie di dono di natura che era quasi una maledizione, cioè lui direi che era più che un imitatore, aveva una specie di fotocopiatrice del timbro di ogni voce. Cioè entrava nell'anima dei personaggi. Entrava nell'anima dei personaggi al punto di poterne ripetere, riprodurre anche la personalità, non soltanto esatto, quelle sì, cose per cui tu dici ah, senti come lo fa bene, no, no? Certo. Ma è quello di dire, questo è lui, non può essere altro che lui stesso. E in questo lui poi si è avvitato, come abbiamo appreso dopo, certo, in una spirale che l'ha portato anche alla morte, alla disperazione, sì, al suicidio, sì. Poi ho sentito, si diceva che fosse gay e che a quei tempi questo pesasse, oddio pesa anche oggi, ma insomma... Comunque questo entrare nell'anima dei personaggi piano piano potrebbe avergli fatto smarrire se stesso. Sì, poi ricorderai, si disse anche che qualcuno lo avrebbe ingaggiato per utilizzare questa sua... Sì, la storia della P2, dote, insomma. La storia della P2, sì, no? Però parliamone come grandissimo artista. Grandissimo lui che artista, cosa ha portato di unico? Beh, lui ha portato una dissacrazione del palazzo in un'epoca in cui non era come oggi che si fa la satira. Certo. Che tutto è... Che si può tutto, diciamo. Si può tutto, si può tutto con qualsiasi linguaggio, usando ogni sorta di strumento linguistico beffardo, crudele, anche volgare, osceno. Insomma, senti, no? Per chiudere, volevo... Che ci fai, Pertini? Ma mio caro, sono passati tanti di quei decenni ormai che non vedo più le motivo di attualità per una tale richiesta, è vero. Grazie Paolo. Ciao, Giovanni, a presto, ciao. A ciao. I nostri ascoltatori, ciao. Non odiarmi se Mix 24.